Tutti i giorni con le mani facciamo mille piccoli gesti, come una carezza o un saluto, ma per chi è sordo-cieco sono gesti straordinari. La Lega del Filo d'Oro aiuta le persone sordo-cieche ad uscire dall'isolamento del buio e del silenzio, a comunicare i propri sentimenti e a diventare più autonome. Aiutiamo la Lega del Filo d'Oro. Un piccolo gesto per noi, ma straordinario per loro. Lega del Filo d'Oro, conto corrente postale 358606, www.legadelfilodoro.it.